Smart City, la città intelligente. Buonasera da Chiara Albicocco. In questa puntata vi raccontiamo di un bel progetto che in questi giorni viene valutato e discusso al Parlamento europeo. Si chiama Eurovelo e prevede la costruzione di 70.000 chilometri di piste ciclabili che attraverseranno tutta l'Europa. L'Italia è impegnata in questo progetto tramite la FIAB, che è la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, e il nostro rappresentante nazionale è Claudio Pedroni, che è qui con noi questa sera. Benvenuto. Salve a tutti. Intanto ci racconti che cos'è Eurovelo. Eurovelo è una rete di percorsi per la bicicletta che attraverseranno, in alcuni casi attraversano già oggi e in altri casi attraverseranno tutti i paesi europei dell'Europa geografica, per cui anche la Russia e altri paesi, per la bici. Abbiamo detto 70.000 chilometri, insomma. Beh, certo, la rete stradale europea è di un paio di milioni di chilometri, per cui 70.000 per la bici è una quota che ci sembra dignitosa e doverosa anche. Ecco, di questi 70.000 quanti ne esistono già e quanti invece dovremmo crearne ex novo? Esistenti già sono nei paesi che storicamente hanno fatto da tempo la scelta dell'infrastruttura ciclabile, ovvero la Germania, l'Olanda, la Danimarca. Per cui all'incirca la metà di questi 70.000 sono oggi già ben pienamente disponibili all'uso ciclistico e gli altri invece sono ancora da predisporre. Gli altri tra cui il nostro paese, immagino. Il nostro paese è attraversato da tre percorsi di Eurovelo, la famosa via Francigena, che noi abbiamo pensato anche per il ciclista, che attraversa l'Italia in verticale praticamente, segue un po' la vecchia via Francigena, entra in Lombardia e arriva attraversa tutta l'Italia, particolare Lombardia, Emilia, Toscana, fino al porto di Brindisi, che viene considerato come il vecchio porto di imbarco dei pellegrini per la Terra Santa. Poi le altre due invece? Poi l'altro è la via mediterranea, ovvero una via che percorre tutta la costiera mediterranea dal Portogallo fino ad Atene, che in Italia interessa sostanzialmente l'asta del fiume Po e le coste del Veneto e del Friuli fino a Trieste. Quindi attraversa il nord in maniera trasversale e la terza? Esatto, da est a ovest. La terza invece è quella che noi abbiamo chiamato ciclopista del sole e che anche Eurovelo chiama Sun Route, la via del sole, che unisce niente meno che Capo Nord con Siracusa, avendo come meta l'imbarco per Malta, per cui è la via più lunga, interessa l'Italia da nord a sud, per cui significa Alto Adige, significa la Valle dell'Adige, Bologna, Firenze, Roma. In Italia c'è da fare un lavorone. In Italia c'è ancora da fare, sì, c'è ancora da fare perché siamo un pochino in ritardo rispetto a questi concetti delle reti ciclabili e anche del cicloturismo. Il cicloturismo è una voce economica secondo noi molto importante, è una voce importante in Germania, in Austria, e il nostro paese purtroppo non riesce ancora ad esprimere le potenzialità turistiche che tutti conoscono anche ad uso del ciclista. Veniamo al punto, qui ci vorrebbero dei fondi, vediamo un po' come siamo messi con lo stato dei lavori. Proprio in questi giorni il Parlamento europeo ha preso in considerazione questo progetto e anche in Italia l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, vi sta in qualche modo appoggiando, quindi si sta muovendo qualcosa per riuscire a realizzare queste belle iniziative che lei ci ha raccontato. Sì, proprio ieri c'è stato un parere favorevole della Commissione Turismo e Trasporti del Parlamento Europeo che ha messo finalmente, come noi chiedevamo da tempo, la rete Eurovelo come sussidiaria, anche se noi avremmo preferito proprio strutturalmente, ma in realtà è stata inserita come rete sussidiaria, cioè la rete ciclistica Eurovelo è stata inserita come rete sussidiaria alle reti trasportistiche di tutta l'Europa, perciò la rete ferroviaria, la rete dei porti, la rete stradale comprenderà, ci sarà anche un piccolo spazio per la rete ciclistica, cioè per Eurovelo. La rete di cui lei sta parlando è quella dentro la quale c'è anche la TAV e tutte queste grosse linee di comunicazione. Come TEN-T, esatto. Porti Europei Network. E però il fatto che sia stata inserita anche un'attenzione particolare per la bicicletta, questo è un motivo insomma importante e che in qualche modo porterà qualche fondo per la realizzazione. Sì, certo, questo è un passo avanti. Noi come anche come Federazione Europea abbiamo in questo modo è molto probabile che ci sarà accesso ad usufruire dei fondi europei, oltre che per le infrastrutture tradizionali, anche per l'infrastruttura ciclistica. In effetti in questo ci ha dato una mano anche l'ANCI e anche un paio di regioni, la Liguria, il Friuli, perché giustamente anche in alcune realtà locali si stanno rendendo conto che lo sviluppo della mobilità ciclistica anche di lungo raggio è un elemento, una risorsa importante. Sì, ed è un elemento sicuramente di sviluppo sostenibile, perché difficile pensare a qualcosa di più sostenibile che percorrere il nostro paese e l'Europa con la bici. Ecco, c'è un termine entro il quale questo progetto deve essere concluso? Dunque, l'obiettivo di SIF è di completare la rete per il 2015, non sono sicuro che riusciremo a rispettare questa data, però il fatto di darsi una scadenza significa che in questo modo le forze coinvolte si attivano in maniera più forte. Certo, ecco, cioè, il 2015 sarà un anno importantissimo per le infrastrutture italiane, va bene, speriamo. Allora le auguro davvero un in bocca al lupo e ci tenga informati del progetto. Grazie a voi. Per questa settimana Smart City termina qui. Buon weekend a tutti, ci risentiamo lunedì.